La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato a Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica Italiana, la cui figura è stata rievocata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo scorso 8 ottobre a Dogliani, a 50 anni dalla scomparsa. Ospite ai nostri microfoni Alberto Giordano, autore de Il pensiero politico di Luigi Einaudi, Name Edizioni. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. È l'11 maggio del 1948. Al quarto scrutinio il Parlamento elegge Luigi Einaudi presidente della Repubblica. Per l'ex governatore della Banca d'Italia, economista e intellettuale di primissimo piano, è il coronamento di una lunga, prestigiosa carriera. A lui il difficile compito di guidare la ricostruzione del paese dalle macerie della guerra. Compito che, per la verità, Einaudi assolve con grande rigore, ma al tempo stesso al Quirinale con grande sobrietà. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ne ha rievocato così la figura lo scorso 8 ottobre a Dogliani, a 50 anni dalla scomparsa. Io vorrei dire che naturalmente continuo, posso dire quotidianamente, a riflettere sulla lezione e ad attingere all'esempio di rigore e di sobrietà di Einaudi, il presidente. C'è da rileggere quello che ha scritto e ci sarebbe anche da ripubblicarlo largamente. C'è da riflettere anche su aspetti misconosciuti, largamente misconosciuti del pensiero di Einaudi, come quella che potremmo chiamare con molta approssimazione la sua dimensione sociale. Laureato in giurisprudenza a 21 anni, redattore della Stampa di Torino e del Corriere della Sera di Milano fino al 1926, corrispondente finanziario ed economico del settimanale The Economist, Luigi Einaudi è professore di scienza delle finanze all'Università di Torino, di economia politica al Politecnico di Torino e scienza delle finanze alla Bocconi di Milano. Incarichi universitari che ricopre per quasi un quarto di secolo. Dopo l'esilio in Svizzera, viene nominato governatore della Banca d'Italia. Eletto alla Costituente, alla sua impronta e al suo rigore si deve in particolare l'approvazione dell'articolo 81 della Costituzione, che prevede al quarto comma che ogni nuova e maggiore spesa debba indicare i mezzi per farvi fronte. Nel 1947 è nominato vicepresidente del Consiglio e ministro delle Finanze e del Tesoro e del Bilancio nel quarto governo De Gasperi. È eletto presidente della Repubblica l'11 maggio 1948 al quarto scrutinio con 518 voti su 872. Tornato nel 1955 alla vita privata di studioso e giornalista, muore a Roma il 30 ottobre 1961. Luigi Einaudi è un presidente interventista. Nel corso del settennato firma ben 11.839 provvedimenti e vigila dall'alto del colle sul rispetto assoluto del vincolo di copertura delle leggi di spesa, come abbiamo sentito. Decisivo negli anni della costruzione dell'Europa unita il suo impegno autenticamente europeista. Sul fronte interno si trova a dover gestire la convulsa fase che segue nel 1953 al fallimento della cosiddetta legge truffa e alla fine dei governi centristi guidati da Alcide De Gasperi. E proprio nell'agosto del 1953 stupisce tutti quando chiama a guidare al governo Giuseppe Pella, perché forma un esecutivo di tregua che, come ha ricordato lo stesso presidente Napolitano, in quella circostanza fu molto utile. Una sorta di esperimento politico che si consumò nel breve volgere di 5 mesi, dal 17 agosto del 1953 al 18 gennaio del 1954. Governo di tregua, governo tecnico, governo d'affari, governo amministrativo con l'incarico pressoché esclusivo di approvare la legge di bilancio. Storici e politici non hanno risparmiato le definizioni per rievocare quel lontano precedente. Con la crisi politica del 1953, dopo il fallimento della cosiddetta legge truffa e dopo che De Gasperi non riuscì nel tentativo di formare un governo monocolore DC che non ottenne la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, convocò il giorno di Ferragosto nella casina del Vignola Giuseppe Pella, già ministro del Tesoro e delle Finanze nei precedenti governi De Gasperi. Il giornalista Vittorio Gorresio chiese a Einaudi il motivo per cui l'incarico era stato conferito senza le rituali consultazioni al Quirinale. Einaudi rispose così: «La Costituzione non parla di consultazioni e si affida al criterio del Capo dello Stato. Il mio criterio mi dice che in questo momento quello che è necessario è un governo». Abbiamo in linea il professor Alberto Giordano, che è autore del pensiero politico di Luigi Einaudi, edito da Genova, Name Edizioni, Università di Milano. Grazie professore per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei. Allora, la figura di Einaudi economista è quella più conosciuta sia al grande pubblico che agli specialisti. In realtà la parte del pensiero politico, dell'elaborazione politica intellettuale di Einaudi forse non lo è altrettanto. Da questo punto di vista, anche traendo spunto dal suo libro, cosa si può aggiungere rispetto al contributo che Einaudi ha lasciato poi anche alle generazioni future? Ma credo che Einaudi sia certamente un economista da ricordare, ma da ricordare anche come pensatore politico, se non altro perché ha affrontato temi che ancora oggi sono al centro non solo della riflessione teorica, ma anche del dibattito politico. Penso al tema dell'unità europea, ma anche del federalismo interno, perché Einaudi è stato uno dei primi, ad esempio con un saggio famoso del 1944 intitolato Via al prefetto, a pensare a un'Italia federale, che credo sia un motivo ulteriore di interesse. Ecco, anche lo stile di Einaudi al Quirinale è stato oggetto di ricostruzioni anche giornalistiche. Ad esempio si narra di quando Einaudi invitò al Quirinale un famoso giornalista e, arrivati alla frutta, gli chiese se voleva dividere la sua mela. Ecco, forse erano proprio tutt'altri tempi rispetto a oggi. E infatti Ennio Flaiano, che era appunto giornalista in questione, concluse: da allora iniziò la Repubblica delle Mele, anzi delle pere indivise. E con insomma, la solita ironia mordace di Flaiano. Però in effetti c'è uno stile, alcuni hanno definito uno stile sabaudo, in effetti c'è una certa sobrietà piemontese nell'Einaudi uomo di Stato, ma in realtà c'era anche nell'Einaudi uomo di pensiero e nell'Einaudi privato cittadino. È un qualcosa di cui oggi si sente piuttosto la mancanza. Ecco, si è parlato a proposito di Einaudi, citando anche un suo famoso saggio, di prediche inutili. Eppure, lo abbiamo appena raccontato, Einaudi fu un presidente molto interventista. Perché prediche inutili? Ma questo in parte era anche un po' un vezzo di Einaudi, uno dei pochi, per la verità, che aveva, di considerarsi, e in certi contesti lo fu davvero, un profeta inascoltato. In un altro contesto, in realtà, pur essendo un uomo di Stato di grandissima importanza, forse potremmo anche considerarlo forse l'ultimo presidente della Repubblica davvero ligio al dettato costituzionale, nel senso che Einaudi, essendo il primo presidente della Repubblica eletto dal Parlamento, forse si sentiva anche investito del compito di modellare ex novo la figura del presidente della Repubblica, che allora era solo presente sulle carte della nostra Costituzione appena entrata in vigore. Lei si è chiesto di recente, nel corso di un convegno, che cosa penserebbe e scriverebbe oggi Einaudi a proposito della crisi dei debiti sovrani e della finanza globale nella quale siamo, ai noi, immersi ormai da diversi anni. E cosa penserebbe Einaudi se fosse tra noi? Ma io credo che la considererebbe una crisi morale prima che economica. D'altra parte, questa è la stessa chiave di lettura che ha adottato quando ha analizzato la crisi del 1929. Una crisi morale nel senso che, secondo Einaudi, riguardo alla crisi del 29, erano venuti in meno alcune qualità, alcuni valori, chiamiamoli pure così, fondamentali e di fatto che costituiscono i pilastri della società: la lealtà, il rispetto dei contratti, la virtù del risparmio, l'assenza di una certa, come la chiamo, ingordigia, di fatto la filosofia del tutto e subito. Penso che se fosse tra noi riproporrebbe un'analisi di questo genere, e se posso permettermi, pur non essendo un economista ma uno storico, tutto sommato una diagnosi che anche oggi credo troverebbe dei punti di appiglio piuttosto sostanziosi. E a proposito della sua attività di storico, un'ultima domanda. Il presidente Napolitano, lo abbiamo ricordato poc'anzi, ha rievocato quel precedente del 53, quando Einaudi chiamò a guidare il governo Giuseppe Pella, certo, per un governo di tregua, cosiddetto anche amministrativo. Ma in realtà in quell'occasione Einaudi stupì tutti. Perché fece quella scelta? Ma Einaudi aveva una grande stima di Pella, una stima che veniva soprattutto dal fatto di una condivisione, una visione di politica economica soprattutto, e anche da una stima personale. Poi, secondo me, Einaudi voleva anche rivendicare, che rilaccio al discorso che facevo poco fa, una certa autonomia dell'istituto presidenziale. In effetti la Costituzione non parla di consultazioni, affida al Presidente della Repubblica la scelta del Presidente del Consiglio, evidentemente in stretto contatto con i Presidenti delle Camere, e credo che in quel momento Einaudi si rendesse anche conto che con la caduta di De Gasperi c'era bisogno di un segnale forte e rapido, e anche la tempistica credo che confermi questa ipotesi. Bene, grazie al professor Giordano, autore, lo abbiamo ricordato, di un interessante libro sul pensiero politico di Luigi Einaudi. Grazie ancora. Grazie a lei.